solo fritto, è il cripto fritto senza rischio. Bene, di nuovo in diretta da Radio Onda Rossa, dagli 87.9, sono le 17.40 e va a cominciare Impatto Voci contro le nocività. Sigla e scaletta della settimana. Oh! Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Ma che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti l'antri! E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa! Ebbene, oggi lunedì 16 dicembre, di nuovo dai microfoni di Radio Onda Rossa, gli 87.9, Impatto, voci contro le nocività. Oggi, insomma, la scaletta della trasmissione odierna tratterà alcuni temi cari, insomma, a questa trasmissione. Si parlerà di piano dei rifiuti regionale e tutte le conseguenze e le vicende che adesso è legato. Si continueremo parlando del decreto biometano, questa nuova frontiera della green economy che sta prendendo varie strade diverse, e continueremo con notizie in particolare dalla nostra città, in particolare con questa ridicola vicenda del controllo del traffico e dell'emergenza polveri sottili nella città di Roma, perché insomma gli interventi previsti per arginare questa emergenza, tra milioni di virgolette, sono veramente ridicoli e insomma sono una vera e propria presa in giro. E poi insomma notizie sparse da Fukushima alla vertenza No TAV in Val di Susa, e quindi insomma ci risentiremo tra pochissimi secondi. E allora in onda comincia la trasmissione, e come avevamo detto dalla scaletta ci occuperemo del piano dei rifiuti, il piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio. Ce ne occupiamo perché principalmente la scorsa settimana, e precisamente lo scorso 13 dicembre, venerdì scorso, alla Regione Lazio a Garbatella c'è stato un convegno che ha parlato, ha presentato, se così si può dire, il piano di intervento della Regione Lazio, il futuro, quello che potrebbe diventare il futuro piano di intervento della Regione Lazio sulla vicenda raccolta e smaltimento dei rifiuti. Già primo dato indicativo di questo convegno è che insomma la documentazione, il documento consegnato ai partecipanti è stato stilato dalla Confservizi, che è un'associazione di categoria che raccoglie le aziende che lavorano proprio nel settore dello smaltimento rifiuti, e quindi questo proprio a dare il segno di cosa stiamo parlando e di che tipo di politica ha intenzione di mettere in campo la regione e questa amministrazione, con Zingaretti, presidente della Regione Lazio, e Civita, assessore ai rifiuti, che praticamente si sono fatti scrivere il piano regionale dei rifiuti dalle aziende che lavorano nel settore. E questo insomma già fa capire che tipo di interventi si prospettano e con quali finalità. e anche con e anche soprattutto che non c'è la minima preoccupazione in questo piano di piano regionale dei rifiuti Lazio delle condizioni ambientali in cui questo piano viene calato e nelle criticità ormai storiche che si vivono nei territori che sono già coinvolti nello smaltimento dei rifiuti. Insomma è il chiaro segno che le amministrazioni regionali che si stanno susseguendo alla gestione della nostra regione prendono ispirazione o prendono ordini direttamente dai settori economici che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti, e il piano dei rifiuti sarà un'emanazione di questo documento che è stato distribuito lo scorso venerdì. Un documento che parla abbastanza chiaramente di alcuni aspetti e invece è più cauto su un altri. Si legge che c'è bisogno di una discarica da più di 1 milione di metri cubi di disponibilità per confine dei rifiuti, ma non si cita il luogo dove ubicare questa discarica. E le mobilitazioni dell'autunno contro la Falcognana probabilmente tengono ancora sull'allerta l'amministrazione e il Toto di Scarica in generale a menzionare il futuro sito post Malagrotta, che sta diventando un vero e proprio tabù per le amministrazioni che si stanno susseguendo, anche con un po' di soddisfazione da parte dei comitati che per tanti anni si stanno battendo proprio su questo argomento, perché la politica è costretta a non riesce ad attaccare e ad incidere come vorrebbe proprio su questo argomento. E quindi insomma da questo punto di vista indicazioni precise non ce ne sono. Però su altri aspetti del piano rifiuti e altro tipo di impiantistica, il documento diffuso lo scorso venerdì è molto chiaro. Ci sarà una larga diffusione di impianti a biogas da rifiuto. I progetti sono parecchi, distribuiti su tutta la regione, e ce n'è anche uno per la città di Roma, l'unico presente nel territorio comunale di Roma. E qui insomma bisognerà capire dove sorgerà il più grosso degli impianti a biogas da rifiuto della regione, nel comune di Roma, in quale area, probabilmente a ridosso dell'agro romano, far sorgere un impianto di questo tipo. Gli impianti proposti per il resto della regione sono parecchi, alcuni purtroppo già avviati, la loro costruzione è stata già avviata, altri invece hanno iter amministrativi ancora in ballo negli uffici regionali. Sul documento distribuito lo scorso venerdì c'è un'indicazione generale, una presa d'atto che la quantità di rifiuti prodotta nella regione sta diminuendo e continuerà a diminuire per probabilmente motivi legati alla crisi economica e al calo dei consumi, ma comunque c'è una esplicita richiesta, e questa però va direttamente al mondo della politica, una esplicita richiesta a prorogare al 2020 l'obiettivo del 65% della raccolta differenziata per i comuni. Un chiaro segnale di impedire che la raccolta differenziata e quindi conseguenze diminuzione di conferimento di rifiuti in tutto questo tipo di impianti venga portata a termine. E non è un caso che proprio un calo della produzione di rifiuti, per arginare questo calo si cerchi appunto di contrastare un'operazione che potrebbe portare a un'ulteriore diminuzione della produzione dei rifiuti e quindi a una perdita cospicua di profitti per chi gestisce discariche, per chi gestisce inceneritori, per chi gestisce futuri o già presenti impianti a biogas. Quindi un bel regalino si chiede, cioè, insomma il mondo delle aziende del settore vuole proprio farsi un bel regalo, vuole che la regione gli faccia un bel regalo con questa bella proroga. E insomma noi ricordiamo a tutti quanti che il termine di raggiungere l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata era scaduto l'anno scorso, e qui invece si chiede una proroga al 2020, e che non sì. è... Tra l'altro parliamo di 7 anni, una proroga di 7 anni che è veramente grave, dal momento che tutte le volte che si parla di rifiuti in televisione, in qualsiasi momento anche di propaganda elettorale, tutti convergono sul fatto che investire nella raccolta differenziata è veramente l'unico modo per uscire dalla prigionia del sistema delle discariche, degli inceneritori, dalle emergenze, cioè effettivamente è l'unica politica dei rifiuti sana in qualche modo, e quindi posticipare di altri 7 anni è veramente una bestemmia. Poi tra l'altro in questo caso parliamo quindi di meno finanziamenti fondamentalmente, no? Per una città tra l'altro come Roma, che ha un'emergenza gravissima in questo periodo, che sta anche facendo questa lotteria della discarica da molto tempo, creando dei conflitti con tutte le popolazioni dei territori limitrofi e anche con le altre province. Quindi diminuire ulteriormente la raccolta differenziata, cioè i finanziamenti per la raccolta, e quindi bloccarla, significa in qualche modo anche incentivare una sorta di guerra civile all'interno della regione. Beh, speriamo che, insomma, fino adesso il toto di scarica, per nostra fortuna, ha prodotto un meccanismo di solidarietà tra i territori che sono stati coinvolti, che si sono mobilitati, però insomma questa solidarietà non è scontata, è fortunatamente il frutto delle mobilitazioni e dell'impegno dei comitati, che hanno capito e hanno raggiunto la maturità di capire che solo attraverso la solidarietà tra tutti i territori e non facendosi la guerra tra poveri si riesce a contrastare questo tipo di progetti. La manifestazione dello scorso 21 settembre ne è stato un esempio abbastanza chiaro e ha dato un colpo molto forte all'iniziativa che si intendeva intraprendere nella Falcognana, e questo insomma con la solidarietà di tutti i territori che comunque sia comunque rischiano di accogliere i rifiuti di Roma. Sì, ma infatti io per guerra civile ovviamente intendevo una guerra tra amministrazioni, non tra popolazioni, perché effettivamente gli obiettivi delle popolazioni sono gli stessi per tutti, no? Cioè, non ragioniamo più nella logica del non nel mio giardino, e quindi anche perché insomma lottare ognuno per il proprio giardino significa anche lottare in pochi. Però insomma le amministrazioni tra di loro invece non fanno che fare una lotta a colpi di decreti e ricorsi al TAR, e per esempio la notizia proprio di questa settimana del comune di Colferice ne è l'ennesima dimostrazione. Infatti il comune di Colferice ha vinto al TAR del Lazio un ricorso contro quello che era il decreto fatto da Clini all'inizio dell'anno, nel gennaio, per cui Clini aveva in qualche modo ampliato i poteri del commissario Sottile, e quindi era stato deciso che i rifiuti di Roma sarebbero stati conferiti nell'impianto di trattamento meccanico biologico di Colferice. Impianto ovviamente molto piccolo, costruito per rispondere ai bisogni di questa zona del comune, e proprio in virtù di queste caratteristiche dell'impianto, quindi con poco personale, con poco spazio, il comune ha vinto questo ricorso al TAR. Insomma non è la prima volta che il TAR blocca l'operazione di Clini a Colferice. Poi tra l'altro il decreto Clini, oltre a mandare i rifiuti nell'impianto di MB di Colferice, prevedeva e prevede il conferimento di rifiuti di Roma anche nell'impianto di MB della discarica di Roncigliana ad Albano Laziale. Proprio su questo, sul piano dei rifiuti, questo argomento viene toccato e si comincia a capire qualcosina. Infatti sul documento che è stato distribuito si cita la discarica di Roncigliano, si cita la capacità del settimo invaso, 500.000 tonnellate per 8 anni di attività, e si cita anche il fatto che dopo solo i 2 anni la discarica è piena per metà, e che con questo ritmo, il ritmo imposto dal decreto Clini, la discarica sarà satura nel corso dei prossimi 2 anni. Perché il sovrastoccaggio dei rifiuti da Roma ha accelerato la saturazione dell'invaso. E quindi questa è una conferma di quello che insomma è stato denunciato per mesi dai comitati della zona. È la conferma che le puzze nauseabonde che tormentano tutta la zona intorno alla discarica sono proprio il prodotto di questa attività troppo eccessiva per quel tipo, per quel sito, ed è stata una conferma che lascia l'amaro in bocca. Noi insomma proviamo a contattare il comitato di Albano Laziale, perché insomma, oltre insomma alle brutte notizie tra virgolette che vi abbiamo raccontato, una notizia un po' più bella e un po' più rassicurante c'è, però dobbiamo farcela spiegare bene nel contesto in cui si immerge e contestualizzarla, perché insomma come dicevamo prima, la logica NIMBY non ci appartiene e la battaglia sui rifiuti è quantomeno una battaglia regionale che prevede appunto la solidarietà e l'impegno per contrastare questo tipo di politiche su tutto il territorio, e quindi insomma contatteremo il comitato di Albano per farci spiegare cosa è successo e che scenario si prevede per l'impianto di incenerimento di Albano Laziale, che vede fortunatamente uno stop, un altro paletto contro questo mostro che si voleva costruire a Roncigliano nel comune di Albano Laziale. Io metto una traccia musicale e cerchiamo di metterci in contatto con Albano, e a risentirci tra qualche minuto. In onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, ci eravamo lasciati con l'intenzione di contattare il comitato di Albano Laziale per un commento sul documento distribuito lo scorso 13 dicembre alla Regione Lazio durante il convegno che prepara la presentazione ufficiale del piano dei rifiuti, e insomma pure per un commento dal comitato Albano in relazione a questo documento come influisce sulla vertenza inceneritore di scarica ad Albano Laziale. Allora, dovremmo avere in linea Daniele. Pronto, Daniele, ci senti? Sì, ciao Paolo, vi sento. Ciao. E niente, noi insomma abbiamo fatto un po' una panoramica, per quanto era possibile, del piano regionale. Insomma, abbiamo raccontato di questa richiesta da parte del mondo delle aziende, perché insomma il documento distribuito lo scorso venerdì è un documento scritto dalle aziende del settore, cioè il mondo della politica prende ordini direttamente da chi fa profitti su sta roba e combina un sacco di disastri. E insomma abbiamo parlato della proroga, una richiesta di proroga di portare la raccolta differenziata al 65% nel 2020, che insomma mi pare una follia, una richiesta, un regalo veramente inqualificabile da concedere a questi signori. Però con te ci tenevamo a chiarire insomma due aspetti. Uno, quello un po' più insomma che ci rallegra un po' di più, che è quello legato al progetto dell'inceneritore e che conseguenze avrà però comunque sul territorio della regione, e l'altro invece sul fronte di scarica, perché lì insomma la partita è ancora aperta e insomma si è capito che il settimo invaso manca poco alla sua fine, alla sua chiusura. Sì, guarda Paolo, intanto ecco, venerdì mattina presso la sala Tevoli della presidenza della Regione Lazio si è tenuto questo convegno organizzato, tanto per non lasciare margini di dubbio, da Conf Servizi, che è appunto l'associazione che sostanzialmente mette insieme tutte le aziende, le imprese che si occupano dei settori strategici, diciamo servizi pubblici quali appunto gas, acqua, appunto rifiuti, trasporti e così via. Quindi la Conf Servizi, di cui fa parte appunto anche il consorzio Coema, che dovrebbe costruire l'inceneritore d'Albano, ma soprattutto la società Pontina Ambiente, che è proprietaria della discarica dei Castelli Romani, quindi che sta proprio qui ad Albano, oltre appunto alla CEA, che è una delle consorziate Coema e così via. Per farla breve, insomma, è stato proprio il presidente della Conf Servizi che, ancora prima del presidente della Regione Lazio e ancora prima dell'assessore all'ambiente Civita, ha dato sostanzialmente la notizia che l'inceneritore d'Albano probabilmente non sarebbe stato costruito, proprio dicendo chiaramente appunto che non sarebbe stata né più necessaria la costruzione dei nuovi impianti, ma semplicemente l'ampliamento o l'ultimazione di quelli già esistenti. Si parla anche di messa a regime. Esattamente, una messa a regime. Ricordiamo appunto che gli impianti al momento sono tre, cioè l'impianto appunto di Malagrotta, che però è fermo dal settembre 2011, costruito in una sola, almeno al momento costruito in una sola linea, fermo appunto dal settembre 2011. Poi c'è l'impianto con due linee di Colleferro e l'impianto di San Vittore. Queste dichiarazioni secondo noi insomma significano molto chiaramente che la linea presente a Malagrotta di gassificazione, che fra l'altro appunto una linea industriale gemella a quella di Albano, potrebbe essere appunto ampliata e portata a tre linee, e vi ricordiamo appunto che vi sono molto diciamo presumibilmente almeno due linee di gassificazione proprio qui nella discarica di Albano, stoccate da circa tre anni, ferme dentro circa 70 giganteschi container. Quindi questa è la notizia insomma che un po' ci fa piacere, nonostante appunto siano stati i rappresentanti dell'industria pesante, la possiamo definire così, italiana, a dettare la linea. È stato appunto il presidente proprio Giuseppe Labbarile, presidente di Confservizi, a dare notizia, mentre appunto il presidente della Regione Lazio Zingaretti e l'assessore regionale all'ambiente con delega ai rifiuti Civita sostanzialmente facevano di sì con la testa. Dopodiché, quindi l'incenerimento, tanto per capirci, rimane un caposaldo del cosiddetto nuovo piano rifiuti della Regione Lazio. Attualmente su questa brochure dei Conf Servizi si attesta una quantità di rifiuti all'anno bruciati o gassificati di circa 500.000 tonnellate, si dovrebbe passare in due anni a circa 720.000, almeno fino al 2020. Senti, dopodiché, Daniele, spieghiamo pure che praticamente si cercherà una quota di rifiuti, andranno a finire nei cementifici come carburante dei cementifici. Esattamente, anche E in più, insomma, questa brochure che da quello insomma che si è potuto capire dovrebbe essere proprio il solco entro cui costruire il piano rifiuti che andrà al voto a cavallo fra gennaio e febbraio prossimo, è previsto sostanzialmente il raddoppio delle discariche presenti nella regione Lazio, quindi avete capito bene, quindi praticamente metro cubo in più o in meno, il raddoppio delle discariche esistenti, e in più entro i prossimi 5 anni anche sostanzialmente triplicare all'incirca le biogas o cosiddette insomma biomasse presenti sul territorio. E un'altra notizia insomma diciamo molto brutta relativa appunto proprio alla discarica di Roncigliano, che è la discarica dei Castelli Romani, che riceve appunto circa 300 tonnellate al giorno di spazzatura dei 10 comuni dei Castelli Romani, più dalla fine di gennaio scorso 2013 anche 150 tonnellate di rifiuti indifferenziati appunto romani, ma a quanto pare anche di Fiumicino, Ciampino e la Città del Vaticano. Che succede? In questa brochure della Confservizi sostanzialmente si mette nero su bianco che in soli 2 anni, e segnatamente da settembre 2011, da quando è partito l'ultimo invaso in uso, il settimo, della discarica di Roncigliano ad oggi, secondo appunto questa brochure sarebbe stata appunto riempita la metà esatta della buca in corso d'uso. Scusa Daniele, sì. Quindi praticamente la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale è diventata a tutti gli effetti la principale discarica di servizio del bacino di Roma. Esattamente, questo risulterebbe dalla brochure che è stata data ufficialmente a tutti i presenti alla conferenza. Quindi si dice che il settimo invaso, che è quello in uso della discarica dei Castelli Romani, chiamata anche di Roncigliano, è ultimata per la metà, quindi è piena per la metà, pur essendo in uso da 2 anni, mentre invece appunto in tutti i documenti amministrativi che hanno portato appunto non solo alla costruzione ma anche all'avvio e alla messa in collaudo di questo invaso, c'è scritto sostanzialmente che questo invaso avrebbe dovuto funzionare e ricevere spazzatura per 8 anni, quindi la buca doveva essere piena, essendo trascorsi solo 2 degli 8 anni autorizzati dalla Regione Lazio, avrebbe dovuto essere piena per 1/4, mentre invece in questa brochure informativa ufficiale di Confservizi, Confcommercio e poi in fondo anche della Regione Lazio viene attestata sostanzialmente un riferimento della metà della buca. Quindi ci chiediamo com'è possibile che in 2 anni la buca sia piena per metà e non per 1/4, come è ampiamente previsto e certificato anche in sede di collaudo di questo invaso. Quindi le contraddizioni sia appunto sulla modalità di incenerimento, che viene sostanzialmente confermata a tutti gli effetti al nuovo piano rifiuti, il raddoppio delle discariche, la facoltà appunto e la possibilità di triplicare l'uso del biogas, e anche appunto questa ennesima contraddizione sulla settima buca in uso della discarica dei Castelli Romani, sostanzialmente ad avviso del comitato che era presente al convegno insomma durante tutta la mattinata di venerdì scorso fino insomma alle prime ore del pomeriggio, rappresentano un'ulteriore controprova che appunto è l'industria pesante a dettare le linee alla politica, e questo nuovo piano rifiuti non è appunto che sostanzialmente una riproposizione di una modalità già vista e rivista di gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti, che continua a puntare su discariche che vengono raddoppiate, su inceneritori che vengono confermati e ampliati a spese dell'erario pubblico, su cosiddetti impianti a biogas e biomassa che sono sostanzialmente una biofregatura sempre a spese dell'erario pubblico, e appunto con modalità truffaldine di gestione dell'invaso in uso. Il settimo, io vi ricordo, insomma, il cosiddetto decreto Clini Sottile diceva ampiamente che le discariche della Regione Lazio a cui veniva inviata la spazzatura indifferenziata romana avrebbero dovuto solo trattare la spazzatura, separarla in frazioni minori, frantumarla e poi essere rispedita per intero al mittente. Quindi cioè, quello che è scritto sulla brochure di Confservizi, Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio sostanzialmente attesterebbe un reato penale che contraddice sostanzialmente appunto il decreto Clini, ovvero la spazzatura romana sarebbe finita nel settimo invaso, anche questo che c'è scritto nella brochure. Se tanto mi dà tanto, non credo insomma che la cosa possa essere avvenuta soltanto nella discarica dei Castelli Romani, ma presumo anche nelle altre discariche che anche se in misura appunto di quantità diverse di rifiuti, ma sono state coinvolte in quell'operazione folle avvenuta fra dicembre 2012 e gennaio 2013 di invio della spazzatura indifferenziata romana in varie discariche, se non sbaglio erano 4 all'incirca della regione Lazio. Allora Daniele, guarda, sei stato molto chiaro, purtroppo per il territorio di Albano Laziale già si prefigura probabilmente nuove mobilitazioni contro quello che sarà probabilmente l'ottavo invaso della discarica, che diventa sempre più indispensabile sia al proprio bacino sia a quanto pare alla città di Roma, visto che il conferimento dei rifiuti della città di Roma è lì che avviene, e quindi insomma non tarde, e alla luce di già la terribile situazione ambientale che si vive in tutto il circondario della discarica, la situazione non potrà che peggiorare, insomma, perché le puzze che la scorsa autunno hanno prodotto parecchie mobilitazioni non potranno far altro che aumentare di quantità, e insomma proprio per questo sovrastoccaggio. Senti, su proprio durante il convegno alcuni, diciamo, rumors o parole, diciamo, appunto rumors parlavano del fatto che la Regione Lazio è intenzionata a finanziare in qualche misura il completamento dell'inceneritore di Malagrotta, utilizzando però i materiali stoccati ad Albano Laziale. Questo ha controprova, insomma, a prova che l'impianto di Albano Laziale non servirebbe più. Però insomma la linea inceneritorista della regione e dei suoi politici rimane insomma un punto fermo, perché insomma quell'impianto lì, fermo da 2 anni, costruito con soldi pubblici ma poi mai attivato, continuerà a fagocitare appunto i nostri soldi, e non si capisce bene con quali fondi si riesca a completare quest'opera così essenziale, cioè così essenziale per loro. Su questo tu hai qualche notizia, oppure insomma toccherà aspettare febbraio-marzo? Il punto è che non sono emerse notizie ufficiali e pubbliche. Quello che dicono rumors delle pubbliche amministrazioni abbastanza attendibili, il primo obiettivo pare essere stato quello di salvare un po' capra e cavoli, e visto che l'inceneritore d'Albano era stato formalmente almeno autorizzato con un decreto di pubblica autorità dell'allora presidente della Regione Lazio e commissario dell'emergenza rifiuti Marrazzo, per insomma in qualche modo scongiurare un po' che gli enti pubblici corressero il rischio di una pretesa di risarcimento economica che insomma varrebbe almeno 500 milioni di euro da parte appunto del gruppo Cerroni, insomma della cordata Coema, che appunto Cerroni ama Acea. E visto che appunto 2 linee sono stoccate, quindi del gasificatore d'Albano sono stoccate da 3 anni in discariche, ferme lì, abbandonate per fortuna a se stesse, il primo diciamo obiettivo è stato quello di salvare un po' capre e cavoli e evitare un eventuale risarcimento in sede civile, quindi permettere a Cerroni di costruire comunque, di montare comunque queste 2 linee. Quello che è stato detto appunto che dovrebbero essere montate a Malagrotta, proprio perché a Malagrotta ce n'è una e qui ce ne sono 2 stoccate, gli impianti sono compatibili, sono tutte e 2 appunto, sono impianti gemelli di gasificazione, e in questo modo avrebbero potuto evitare, perché sostanzialmente ci fosse fra virgolette uno spreco industriale, evitare soprattutto il rischio di un risarcimento in sede civile. Dopodiché ecco, la domanda appunto che noi abbiamo fatto è stata quella di capire in quale forma e modi sarebbe stata finanziata l'operazione, perché abbiamo capito che Cerroni evidentemente non ha alcuna intenzione, proprio in virtù di quel decreto di pubblico utilità, di mettere nemmeno un centesimo di soldi privati, ma vuole quelli pubblici. Nessuno ha risposto formalmente, non è stata neanche aperta una possibilità di domanda ai presenti, anzi addirittura gli amministratori pubblici sono scappati, scortati appena finito proprio il convegno, quindi insomma queste sono domande che continuano ad aleggiare, e di sicuro insomma il comitato Noinch qui ai Castelli Romani non si fermerà alle promesse appunto della parte industriale, ma pretenderà è questa la richiesta che ancora solleviamo pubblicamente e formalmente, pretenderà la revoca dell'autorizzazione ambientale del 13 agosto 2009, che è l'atto appunto che a livello amministrativo ha dato il via libera amministrativa al cantiere e che ancora oggi permetterebbe quindi al consorzio di Cerroni, Acea ed Ama di avviare in qualsiasi momento attività di costruzione al liceatore, e ancora di più pretendiamo che la regione comunque si interfacci direttamente col Ministero dello Sviluppo Economico, che abbiamo visto all'incirca un mese fa che ancora era dell'idea di finanziare con i soldi pubblici questi inceneritori. Quindi le cose da fare sono ancora tante, il piano non è stato tra l'altro neanche votato, si tratta proprio delle promesse dell'industria pesante, non ci bastano quelle promesse, non ci basta neanche il piano, vogliamo la revoca assoluta di quell'AIA, di quell'autorizzazione ambientale, e soprattutto la revoca del passaggio dei fondi pubblici, quel mezzo miliardo d'euro che verrebbe regalato senza alcun titolo di legge per un impianto appunto che non ha alcun senso, che fra l'altro, ve lo ricordo, brucierebbe soltanto carta, plastica e legno, il cosiddetto CDR, che è materiale riciclabile al 100% a ciclo continuo a freddo, quindi veramente una follia che non ha senso da nessun punto di vista, né industriale, né imprenditoriale, né igienico-sanitario, né ambientale, quindi insomma veramente una follia e un piano, sicuramente un nuovo piano che non convince nessuno, perché continua a puntare appunto sulla combustione dei rifiuti in cementifici, inceneritori e gasificatori, in buche sparse appunto in tutta la regione, in impianti a biogas che sono l'ennesima follia e speculazione ai danni dei territori e della salute dei cittadini, e appunto in modalità di gestioni illegali tipo quelle appunto di spedire la spazzatura romana dentro alle discariche nella regione Lazio, nonostante il decreto Clini sottile di gennaio vietasse esplicitamente l'interramento nelle discariche sparse nella regione Lazio della spazzatura romana. Quindi cioè, veramente c'è la parte industriale e amministrativa che sostanzialmente sottoscrive una violazione di specifiche disposizioni penali, quindi insomma, veramente non ci stupiamo più di niente. Allora Daniele, noi ti ringraziamo per questo contributo, ci risenteremo per le prossime iniziative e insomma ci ralleghiamo per le notizie più soddisfacenti e insomma teniamo alta l'attenzione invece su per quello che ancora ci compete. Un saluto e ci risentiamo a presto. Sì, grazie mille per l'ospitalità. Ciao ciao. Ciao. E allora insomma questo era un commento per quello che riguarda il territorio dei Castelli Romani, proprio relativo al piano futuro, piano dei rifiuti. Diciamo subito che proprio nel quadrante di Malagrotta, della Valle Galeria, delle nubi tossiche si continuano ad addensare, perché insomma la prospettiva dell'apertura di un inceneritore e di un grosso impianto a biogas, e considerando che la discarica di Monti dell'Ortaccio in teoria è autorizzata, anzi in pratica è autorizzata, insomma lì la situazione non si mette per niente bene. Noi chiudiamo questa lunga parentesi sui rifiuti con un proseguo di una vicenda vergognosa, insomma a dire poco. Abbiamo detto che la scorsa settimana erano state avvistate alte colonne di fumo dentro al comprensorio di Malagrotta. Probabilmente era scoppiato un incendio. Un parlamentare che abita nella zona, non diciamo il partito, si è presentato ai cancelli del comprensorio di Malagrotta ed è riuscito a entrare dentro al comprensorio insieme ai vigili del fuoco. Parliamo insomma del parlamentare Vignaroli. E è riuscito a entrare dentro al comprensorio di Malagrotta. È scoppiata una polemica con l'amministratore della Colari, braccio destro di Maglio Cerroni, parliamo di Francesco Rando, ingegner Francesco Rando, braccio destro di Cerroni e anche prestanome di Cerroni, nonché diciamo scarica barile di Cerroni. Francesco Rando è quello che prende le denunce e prende le condanne per conto di Cerroni, infatti è pluricondannato per reati ambientali, la scatola, insomma la testa di legno che viene utilizzata quando c'è da beccarsi qualche denuncia o qualche condanna, che ha in polemica con Vignaroli, è intenzionato a denunciarlo per violazione della proprietà privata, perché si è intrufolato insieme ai vigili del fuoco dentro al comprensorio di Malagrotta, poi tra l'altro non riuscendo nemmeno a raggiungere il luogo dell'incendio perché gli è stato impedito, e quindi insomma ci dà E ci dà anche, insomma, il segno del fastidio che hanno questi soggetti imprenditoriali quando qualcuno cerca di ficcare il naso dentro le loro cosette. Poi, sempre lì a Malagrotta, alcuni noti esponenti del comitato storico di Malagrotta sono stati condannati in una causa civile a pagare delle spese legali in maniera veramente allucinante. È stata aperta una sottoscrizione straordinaria per coprire queste spese legali, ci sono in corso iniziative proprio di sottoscrizione, quindi magari quando sapremo delle prossime, insomma, le pubblicizzeremo proprio per sostenere questi componenti dei comitati di Malagrotta colpiti da questi provvedimenti. Noi, insomma, chiudiamo questo lungo capitolo rifiuti e ritorniamo, insomma, subito in onda con altre notizie. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit in your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best. E torniamo subito in onda qui ad Impatto, visto che oggi il tempo è ancora più tirano del solito, e parliamo del nuovo decreto sul biometano che è stato creato questa settimana, l'ennesimo regalo, insomma, della politica a quella che sembra essere una delle tante galline dalle uova d'oro della sotto Natale, regali. Esatto. Il decreto era già stato siglato nelle precedenti settimane dal ministro dell'ambiente Orlando e da quello dello sviluppo economico Zanonato, e adesso è stato approvato anche da quello delle politiche agricole D'Annunzia De Girolamo. Diciamo che è un decreto che aiuterà la crescita, diciamo, del mercato del biogas, e il tutto attraverso un sistema di incentivi e di aiuti economici. Diciamo, il testo del decreto è abbastanza complicato, però volendolo riassumere in tre punti, non andando in tutti i dettagli, dal momento che poi gli incentivi sono diversi a seconda del tipo di produzione, possiamo dire che in generale vengono aiutati i produttori di biogas proveniente da o rifiuti o sottoprodotti agricoli, quindi non da prodotti agricoli creati ad hoc, ma da sottoprodotti, anche se comunque sia, se vengono utilizzati prodotti agricoli ad hoc per in una percentuale massima del 30%, anche in quel caso si accede agli incentivi, anche se in una forma minore. Incentivi che consistono principalmente nella possibilità di vendere questo biogas ad un prezzo maggiore rispetto a quello che è il prezzo di mercato del gas naturale, quindi un po' una sorta di incentivo simile a quello che si fa per le energie rinnovabili, e infatti in questo caso fondamentalmente viene considerata un'energia rinnovabile il biogas. È anche simile all'incentivo che c'è per la produzione di energia elettrica da biogas, da rifiuto. Insomma, sì, una forma di sostegno a questa attività. Sì, diciamo che i mercati all'interno del quale questo biogas sarebbe inserito sono sia quello della rete del gas stessa, sia quello dei distributori per i mezzi pubblici, e quindi le aziende agricole, le aziende in generale che producono questo biogas possono diventare direttamente dei distributori, e sia proprio per la generazione di energia elettrica da biometano. Quindi diciamo ci sono questi tre settori. Un grandissimo business, come già ho detto, dal momento che, anzi lo voglio proprio ricordare, che l'Osservatorio per l'Agroenergia ha stimato il potenziale del biometano come un business di circa 5,6 miliardi di metri cubi di produzione l'anno, che dovrebbe arrivare a coprire dal 5 al 10% del consumo lordo di energia nel 2020. Inoltre l'Italia è il terzo produttore di biogas al mondo, secondo in Europa dopo la Germania, nonché il sesto mercato mondiale per il metano per l'autotrazione, quindi abbiamo una grandissima quantità di mezzi, anche pubblici soprattutto, che vanno a metano. Anche perché abbiamo tantissimi mezzi che vanno su gomma e non su rotaia, e quindi insomma ce n'è bisogno. Noi ricordiamo che biogas, biomasse, agrocombustibili sono tutti i termini che nascondono invece un grandissimo pericolo per l'agricoltura e per i fondi agricoli dal punto di vista dello sfruttamento, sovrasfruttamento e contaminazione dei terreni adibiti a questo tipo di operazioni, insomma, quindi il rischio di mettere nella catena alimentare veramente tantissime porcherie. E il brutto è che la politica sta cercando di far passare tutte queste operazioni sotto la veste rassicurante della green economy e del tentativo di farle passare come attività non impattanti sull'ambiente e sull'uomo. Invece, insomma, stiamo parlando invece di un'attività rischiosissima, soprattutto per la capacità di estendere la contaminazione dei suoli, molto più di una singola discarica che magari concentra in un luogo tutto, insomma, tutto il materiale inquinante. Sì, diciamo, come avevamo già detto abbondantemente l'anno scorso, il problema principale di questi impianti è che vanno proprio a compromettere anche tutte le politiche agricole nazionali. Non è semplicemente una questione di rifiuti, perché molto spesso il sottoprodotto finale viene spacciato e venduto come concime, ed è in grado di distribuire non soltanto rifiuti nei campi ma anche proprio batteri, e quindi potenzialmente rendere infetti territori ampissimi della produzione nazionale. E costringere i contadini a vendere i loro raccolti per forza agli impianti, e non essendo, esatto, costretti a non, cioè quelle derrate alimentari non sono più commestibili, e quindi insomma cadrebbero sotto il gioco dei distributori e dei produttori di gas ampie fette del territorio agricolo, e quindi insomma un rischio che va sicuramente contrastato, perché insomma rischia di compromettere larghissime fette di territorio e settori dell'economia agricola in maniera poi anche irreversibile. Insomma, i casi già soprattutto in pianura padana ne abbiamo raccontati, ce ne sono parecchi, e il rischio è quello. E poi, se vogliamo passare velocemente alle notizie sulla questione nucleare, da Fukushima ormai è sempre un bollettino di guerra, anche perché insomma da novembre è cominciata la messa in sicurezza di alcuni reattori estremamente pericolosi. E notizia di questa settimana è la rilevazione di livelli record di radiazioni da un condotto che collega appunto gli edifici di un reattore ad un tubo di ventilazione, livelli che sono arrivati a 25 sievert all'ora. Un livello altissimo, per darvi una misura, parliamo di 250 milioni di volte la radioattività naturale del pianeta Terra. Beh sì, di solito la radioattività si conta in millisievert, invece qui stiamo al sievert, quindi esatto, parecchi zeri sono spariti. Sì, un livello in grado di uccidere una persona in 20 minuti, secondo molti esperti, quindi insomma un punto con una concentrazione di radioattività enorme. Ma il problema di Fukushima non è semplicemente Fukushima, ma è il problema che c'è un inquinamento a livello globale, di cui i dati stanno uscendo a poco da varie università, soprattutto americane, con il passare del tempo, perché comunque sia dal momento che soprattutto c'è un problema di acqua inquinata che è stata immessa nell'Oceano Pacifico, l'inquinamento sta arrivando dall'altra parte addirittura, quindi non soltanto le coste dell'Asia orientale ma anche dell'America occidentale, e quindi ci sono in continuazione notizie, non so, di morie di animali in Alaska per esempio, tra l'altro con malattie strane che prevedono la perdita di pelo, strane ferite, bruciature tipiche delle esposizioni a agenti radioattivi, oppure comunque sia alti livelli di radioattività trovati nel pesce, quindi anche una continua contaminazione di molte popolazioni asiatiche che hanno del pesce, insomma, la base della loro alimentazione. Tu, Daniele, avevi delle altre notizie su... Sì, oltre a questo, vabbè, sempre, diciamo, altre notizie drammatiche riguardano Fukushima, che la TEPCO, appunto la società che si occupava di gestire questi reattori nucleari, ha finalmente reso noto i ritrovamenti di prove, insomma, dell'avvenuto meltdown, che, per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, si tratta dello scioglimento delle barre di combustibile che si trovano proprio all'interno del reattore nucleare e che quindi, diciamo, sono in grado addirittura di perforare il cemento armato del reattore, andando ad inquinare le falde freatiche e scendere addirittura in profondità nella crosta terrestre. Quindi, diciamo, un fenomeno davvero drammatico. E infine, vabbè, sempre invece dal Canada, delle stime basate su delle proiezioni abbastanza conservative e credibili, stimano appunto che il disastro di Fukushima sia circa il doppio più grave di quello che c'è stato a Chernobyl. Quindi, insomma, si tratta veramente di una situazione molto problematica. E come regalo, visto che è il periodo natalizio, il Comitato Olimpico ha pensato bene di regalare le Olimpiadi nel 2020 alla città di Tokyo, che non dista moltissimo da Fukushima. Saranno le Olimpiadi più radioattive della storia dell'umanità. Raggiungeremo record nelle prestazioni umane grandiose mai viste prima, primi uomini con sei gambe e quindi, insomma, cercano di coprire questo scempio con questa operazione di facciata delle Olimpiadi, ma insomma la situazione è drammatica. Noi speriamo di tornare magari proprio sull'argomento con più tempo solo su questo aspetto, perché, insomma, le notizie che arrivano sono catastrofiche e non insomma non stiamo scherzando. Andiamo in chiusura, avremmo voluto parlarvi dell'allarme smog e delle targhe alterne, perché, insomma, ci pare che in questa città ci prendono veramente per il culo con questa storia. Purtroppo il tempo è finito a nostra disposizione, però, insomma, cercheremo di affrontare l'argomento al più presto. Ricordiamo solamente a tutti quanti che domani ci sono le targhe alterne dalle 8:30 alle 14, dalle 15:30 alle 20 i veicoli con la targa dispara non possono circolare. Attenti alle multe, però, insomma, la presa per il culo su questo argomento è veramente arrivata a livelli inqualificabili e toccherà parlarne prima o poi, perché, insomma, stiamo parlando veramente di una presa per il culo mostruosa. E, insomma, e l'inquinamento della città e la mobilità di questa città sono due argomenti che vanno a braccetto, e quindi speriamo di trovare il tempo per trattarlo un po' meglio. Noi vi lasciamo per questa settimana, è tutto da Impatto, Voci contro le nocività. Vi ricordiamo sempre che trasmettiamo dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo anche che è uscita la Scarceranda 2014, la potete trovare qui a Via De Volci 56, acquistando una Scarceranda permetterete a Radio Onda Rossa